ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Il vestito rosso. Quando la giovinetta di Scrolica aveva 17 anni, avvenne che una domenica d'estate si incamminasse verso la chiesa in compagnia di entrambi i genitori. Strada facendo teneva indosso uno scialle che si tolse quando arrivarono sul sagrato e allora si vide che indossava un vestito come nessuno nel circondario ne aveva mai visto l'uguale. Uno di quei venditori che vanno in giro di villaggio in villaggio con grandi sacchi sulle spalle si era spinto fino alla Skedalar e quando aveva visto Clara Gulla, nella freschezza e nello splendore della sua giovinezza, aveva tirato fuori dal sacco una stoffa, cercando di convincere i genitori a comprargliela. Era rossa e cangiante, sembrava di seta. Ma naturalmente la stoffa era tanto cara quanto era bella, e Anna Caterina non potevano a nessun costo permettersi di comprare alla ragazza un vestito simile, anche se, comprensibilmente, almeno Jan non avrebbe desiderato di meglio. E pensare che il mercante, dopo aver insistito e supplicato inutilmente un bel pezzo, era addirittura disperato di non riuscire a imporre la sua volontà. Si era messo in mente, assicurò, che quella stoffa era fatta per la loro figlia. In tutta la regione non aveva mai visto nessun'altra ragazza a cui sarebbe stata così bene come a lei. Alla fine srotolò e misurò tanta stoffa quanto ne serviva per un vestito e la diede a Clara Gulla. Non gli importava del pagamento, desiderava soltanto vederla vestita con l'abito rosso la prossima volta che sarebbe venuta a Scrolica. Il vestito fu fatto cucire dalla migliore sarta del circondario, quella che lavorava di solito per le signorine di Lovdala. E quando Clara Gulla lo indossò, erano così belli, lei e il vestito, da poter credere che fossero fioriti insieme su uno di quei bei rosai selvatici del bosco. La domenica in cui Clara Gulla doveva presentarsi alla chiesa col vestito nuovo, né Jan né Katrina avevano potuto restare a casa, tant'erano curiosi di sentire che cosa avrebbe detto la gente. E andò che tutti notavano il vestito rosso, e dopo averlo guardato una volta, si voltavano a guardarlo di nuovo. Ma la seconda volta non guardavano soltanto il vestito, guardavano anche la giovinetta che lo portava. Qualcuno aveva già sentito parlare del vestito, altri volevano sapere com'era che una povera figlia di contadini si presentasse così elegante sul sagrato della chiesa. Jan e Katrina furono costrette a ripetere più volte la storia del mercante, e quando la gente veniva a sapere di come stavano le cose, non se l'aveva più a male. Anzi, si rallegravano tutti che la fortuna si fosse degnata di fare una capatina in una povera casa delle Askedalar. C'erano figli di proprietari che non nascondevano che se la ragazza fosse stata di famiglia conveniente, sarebbe tornata dalla chiesa già fidanzata. E c'erano figlie di proprietari, perfino ereditiere, che si dicevano fra sé che non avrebbero dovuto dare da buona parte delle loro terre in cambio di un volto così roseo e luminoso e così raggiante di giovinezza e di salute. Ma capitò che proprio quella domenica, invece del solito pastore, venisse a predicare a Svarzio il prevosto di Bro. E il prevosto di Bro era un uomo severo e all'antica, che si irritava di ogni genere di sfoggio che fosse nel vestire come in tutto il resto. Quando vide la giovinetta con il vestito rosso, ebbe proprio paura che potesse essere seta, e mandò il sacrestano a chiamare la ragazza e i genitori perché voleva parlar loro. Vedeva bene anche lui che la ragazza e il vestito erano fatti l'uno per l'altro, ma non per questo la faccenda gli dispiaceva di meno. «Senti, ragazza mia, devo dirti una cosa», incominciò il prevosto, rivolgendosi a Clara Gulla e ponendole una mano sulla spalla. «Non c'è niente che mi impedisca di abbigliarmi come un vescovo con la croce d'oro al collo, se voglio. Ma non lo faccio. Non lo faccio perché non voglio apparire più di quello che sono. E anche tu non devi vestire come una giovane proprietaria terriera quando non sei che la figlia di un semplice contadino. Erano parole severe. E Clara Gulla restò così sconcertata che non seppe che cosa rispondere. Ma Katrina si affrettò a spiegare che la ragazza aveva avuto la stoffa in regalo. Sì, da farsi, continuò il prevosto. Ma non capite dunque voi, genitori, che se lasciate vostra figlia acconciarsi così una o due volte, poi non potrete più farle mettere i modesti vestiti che siete in grado di procurarle? E con questo voltò loro le spalle, perché ormai aveva chiaramente espresso il suo parere. Ma Ian aveva pronta una risposta prima che fosse troppo lontano per udirla. Se questa ragazzina dovesse essere vestita in modo conveniente, disse, dovrebbe essere splendida come il sole, perché non è stata altro che un sole e una gioia per noi, da quando è nata. Il prevosto tornò indietro, e li osservò tutti e tre pensosamente. Ian e Katrina apparivano vecchi e affaticati, ma i loro occhi si illuminavano nei volti rugosi quando si volgevano verso la radiosa giovinetta che avevano in mezzo a loro. Allora il prevosto dovette di sicuro dire a se stesso che era un peccato turbare la felicità dei due vecchi. Se è così, se sei stata la luce e la gioia per i tuoi poveri genitori, puoi con orgoglio portare il tuo vestito, le disse con dolcezza, perché un figlio che sa dare felicità al padre e alla madre è, ai nostri occhi, la cosa più bella che ci sia data di vedere. Il nuovo proprietario. Quando tornarono dalla chiesa quella stessa domenica, dopo le belle parole che il prevosto aveva rivolto a Clara Gulla, i tre di Scrolica videro due uomini appollaiati sullo steccato vicino al cancello. Uno era Lars Gunnarsson, ormai succeduto a Erik di Falla nel ruolo di padrone. L'altro era il commesso di una bottega di Bröby, dove Katrina era solita comprare zucchero e caffè. Avevano un'aria così indifferente ed estranea, lì seduti com'erano, che Jan stentò a credere che stessero aspettando proprio lui. Si limitò quindi a togliersi il berretto e passò davanti a loro, per entrare in casa senza dir nulla. Quelli non si mossero, e Jan cominciò ad augurarsi che si spostassero da qualche altra parte dove potesse fare a meno di vederli. Aveva la sensazione che Lars Gunnarsson fosse mal disposto verso di lui dal giorno della disgrazia nel bosco. Più volte gli aveva sentito accennare che lui, Jan, stava diventando vecchio e che non avrebbe potuto guadagnarsi la paga ancora per molto tempo. Katrina servì il pranzo e il pasto fu presto consumato. Lars Gunnarsson e il commesso si trattenevano ancora sullo steccato in animata conversazione. A Jan sembrava che fossero lì come due avvoltoi, aspettando il momento propizio e divertendosi intanto alle spese degli uccellini che si illudevano di poter loro fuggire. Poi finalmente saltarono giù dalla staccionata, aprirono il cancello e si diressero verso la casetta. Era dunque con lui che ce l'avevano. Ebbe il chiaro presentimento che volessero fargli del male, e si volse intorno come per cercare un angolo dove nascondersi, ma il suo sguardo cadde su Clara Gulla, che sedeva accanto alla finestra, guardando anche lei fuori, e allora gli tornò il coraggio. Che cosa doveva temere quando aveva una figlia simile? Intelligente e giudiziosa, e non aveva paura di nulla. La fortuna era sempre dalla sua in tutto ciò che intraprendeva. Non sarebbe stato facile per Lars Gunnarsson avere ragione di lei. Quando Lars e il commesso entrarono, avevano la stessa espressione indifferente ed estranea di poco prima. Lars disse che erano rimasti tanto tempo sullo steccato a guardare la graziosa casetta, e alla fine avevano avuto voglia di entrare. Lodarono tutto quello che vi si trovava, e Lars aggiunse che certo Jan e Katrina dovevano essere ben riconoscenti ad Erik di Falla, perché era stato grazie a lui che avevano potuto costruire la casa e anche sposarsi. «Mi viene di fatto di pensare una cosa», aggiunse subito dopo, volgendo altrove gli occhi in modo da non guardare né Jan né Katrina. Erik di Falla fu certo così previdente da darvi un qualche documento che il terreno su cui sorge la casetta diventava vostra proprietà, vero? Né Jan né Katrina risposero una parola. Capirono subito che Lars era venuto al dunque di quel che aveva da dire, ed era meglio prima lasciare che si spiegasse fino in fondo. A quel che ho sentito non dovrebbero esserci documenti, proseguì Lars. ma non posso proprio credere che le cose siano così, perché in tal caso è possibile che anche la casa appartenga a chi possiede il terreno. Jan non disse nulla ancora, ma Katrina fu presa da una tale ira che non poté trattenersi. Eric di Falla ci ha regalato il pezzo di terra su cui abbiamo costruito la casa e nessuno ha il diritto di togliercela. Ma nessuno ne aveva l'intenzione, proseguì il nuovo proprietario in tono conciliante. Voleva soltanto mettere le cose in regola. Tutto qui. Se Jan poteva dargli 100 scudi per la fiera d'ottobre... 100 scudi? E la voce le uscì quasi di un grido. Lars non aggiunse altro. Si limitò ad alzare la testa e serrò le labbra. Non dici una parola tu, Jan, disse Katrina. Non senti che Lars vuole da noi 100 scudi? Forse non è tanto facile per Jan tirar fuori 100 scudi, osservò Lars Gunnarsson. Ma io avrò pure il diritto di sapere che cosa è mio. E per questo volete rubarci la casa? Gridò Katrina. No, non ci penso neppure, la casetta è vostra. È soltanto il terreno che pretendo. Già, ma allora anche la casa dovrà sloggiare dal vostro terreno, obiettò Katrina. Ma forse è inutile che vi prendiate la pena di trasferire una cosa che tanto non potete conservare. Ah, fece Katrina. Vuol dire che volete confiscarla? Lars Gunnarsson fece un gesto di diniego. No, non voleva confiscare la casa. Dio ce ne guardi, l'aveva già detto che non voleva. Ma il fatto è che il bottegaio di Bröby aveva mandato lì il commesso con qualche fattura che non gli era stata pagata. Il commesso tirò fuori le fatture. Katrina le porse a Clara Gulla e la pregò di contare a quanto ammontava il debito. Non erano meno di 100 scudi, e Katrina impallidì di colpo lì seduta dov'era. «Vedo che è vostra intenzione scacciarci di casa», disse. «Ma no», rispose Lars, «non è affatto così, purché paghiate i vostri debiti». «Dovreste pensare un po' ai vostri genitori, Lars. Non se la passavano tanto bene loro prima che diventaste il genero di un proprietario». Era sempre Katrina che cercava di rispondere. Jan non diceva niente. Sedeva e guardava Clara Gulla. Guardava e aspettava. Gli appariva così evidente che tutto avveniva unicamente per lei, perché lei potesse mostrare di che cosa era capace. «Quando al povero tolgono la sua casa, è finita per lui», si lamentava Katrina. «Ma io non voglio per niente prendere la casa», si scusava Lars Gunnarsson. «Voglio soltanto che si venga una sistemazione». Ma Katrina non l'ascoltava. «Finché il povero ha una casa, ha l'impressione di valere come tutti gli altri. Ma chi non ha una propria dimora non si sente un essere umano». A Jan sembrava che avesse appena pensato sopra di tutto quello che diceva. La casetta era costruita con legname di scarto. Era fredda d'inverno, pencolava sulle cattive fondamenta, era piccola, stretta, eppure era come se, perdendola, tutto sarebbe finito per loro. Ma nel fondo di se stesso Jan non poteva credere neanche un istante che sarebbe andata davvero così. C'era lì Clara Gulla vicino a lui, e già aveva visto i suoi occhi accendersi. Presto, presto avrebbe detto una parola o fatto un gesto che avrebbe cacciato via quei tormentatori. «Beh, avete tempo per prendere la vostra decisione», disse il nuovo proprietario. «Ma ricordatevi che il 1° ottobre o sloggiate o il negoziante di Bröby deve essere pagato fino all'ultimo centesimo, ed io devo avere i miei 100 scudi per il terreno». Katrina si contorceva le vecchie mani consunte dal lavoro. Era così disperata che parlava da sola, senza preoccuparsi di chi poteva sentirla. «Come potrò andare in chiesa? E come potrò farmi vedere tra la gente quando sarò così mal ridotta da non avere neppure una casa mia?» Jan pensava ad altro. Gli tornavano in mente tutti quei bei ricordi legati alla casetta. Era qui che la levatrice gli aveva affidato la bambina. Era lì, sulla porta, che stava quel pomeriggio, quando il sole era spuntato tra le nubi per dare il nome alla bimba. La casetta era una cosa sola, con lui, Clara Gulla e Katrina. Non potevano portargliela via. Ma vide Clara Gulla stringere il pugno. Ecco che stava per venire in loro aiuto. Lars Gunnarsson e il commesso si alzarono e si avviarono verso la porta. Andandosene, salutarono. Ma dalla casa nessuno restituì il saluto. Appena se ne furono andati, la giovinetta scosse fieramente il capo e si alzò. «Se solo mi lasciaste partire nel mondo», disse. Katrina smise di brontolare e di torcersi le mani. le parole avevano risvegliato in lei una debole speranza. «Non sarà poi così impossibile guadagnare 200 scudi per il 1° d'ottobre», continuò Clara Gulla. «È appena passato San Giovanni e ci sono ancora 3 mesi. Basta che io possa andare a Stoccolma e mettermi a servizio. E vi prometto che la casetta resterà vostra». Quando Jan Andersson di Skrolica udì queste parole, divenne di colpo pallido e rovesciò la testa indietro come se dovesse svenire. Era così bello da parte della ragazzina. Era proprio questo che aveva atteso tutto il tempo. Ma lui, come avrebbe potuto vivere, lui, se Clara Gulla se ne andava lontano? Jan di Skrolica camminava per lo stesso sentiero del bosco che lui e le sue donne avevano percorso qualche ora prima tornando a casa, tutti felici dalla chiesa. Aveva tenuto un lungo conciliabolo con Katrina ed erano rimasti d'accordo che prima di mandar lontano la figlia o di prendere qualche altro provvedimento, Jan sarebbe andato a chiedere al deputato Karls Karlsson di Strovik se Lars Gunnarsson avesse il diritto di togliere loro la casetta. Nessuno, in tutto il comune di Svarzio, era altrettanto ferrato su leggi e decreti quanto il deputato Sturvik. Chi era abbastanza saggio da ricorrere al suo aiuto in occasione di ripartizioni, acquisti, inventari e aste o redazioni di testamenti, poteva essere certo che tutto era fatto secondo la legge e correttamente, e che non c'era rischio di dover incappare in seguito in liti e processi. Ma il deputato era un uomo severo e autoritario, dall'espressione burbera e dalla voce rude, e Jan non era precisamente felice di dover ricorrere a quel colloquio. «La prima cosa che farà quando mi presenterò sarà di tenermi una predica perché non ho i documenti», pensava. «Ce ne sono così tante di persone che sono state strapazzate all'inizio che poi non hanno più osato tirar fuori il fatto su cui volevano avere da consiglio». Jan si era messo in cammino con una tale precipitazione che non aveva avuto il tempo di riflettere a che uomo terrificante andava a incontrare. Ma mentre attraversava i campi cintati della Skedalar, avviandosi verso la grande foresta, gli tornò l'antico timore. Che sciocchezza non aver portato con sé Clara Gulla. Non aveva visto la ragazza uscendo di casa. Forse era andata a cercare un posto solitario nella foresta, dove poter sfogare nel pianto il suo dolore. Era fatta così. Non voleva mai farsi vedere da nessuno quando era sconfortata. Proprio mentre Jan stava per deviare nel bosco, sentì qualcuno cantare su nella montagna, alla sua destra. Si fermò e rimase in ascolto. Era una voce di donna, ma era mai possibile che fosse proprio la voce che gli sembrava di riconoscere? Ad ogni modo volle appurare di cosa si trattasse prima di procedere oltre. Il canto gli giungeva limpido e chiaro, ma il bosco gli nascondeva chi cantava. Deviò dalla strada e si addentrò tra gli arbusti per poterla sorprendere. Non era però così vicina come aveva creduto, e per di più non stava ferma, ma si spostava sempre più lontano man mano che lui la seguiva. Sempre più lontano e sempre più in alto. A volte gli sembrava che cantasse e che giasse proprio sopra di lui. Probabilmente chi cantava stava salendo sullo Sturnipa. Capì che aveva preso un sentiero che serpeggiava su per il pendio scosceso della montagna. Era bordato di giovani betulle così fitte che per forza Jan non poteva scorgerla. Ma per quanto ripido fosse il cammino, lei continuava a inerpicarsi con lo stesso slancio. Sembrava che si innalzasse alla rapidità di un uccello in volo, e non faceva che cantare. Jan invece saliva zig-zag per la montagna. Ma nella sua agitazione si era allontanato dal sentiero, ed era costretto ad aprirsi il cammino attraverso il bosco. Non c'era quindi da meravigliarsi che rimanesse indietro. Si sentiva sempre più oppresso da un peso sul petto e gli era sempre più difficile respirare mentre procedeva facendosi guidare dal canto. Alla fine avanzava così lentamente che a stento sembrava muoversi. Non è tanto facile riconoscere le voci. E nel bosco è ancora più difficile che altrove, con tutte le cose che vi sono che stormiscono e sussurrano e quasi cantano anch'esse. Jan doveva assolutamente arrivare a vedere quella giovinetta che era tanto lieta, che sembrava addirittura volare per lo scosceso pendio, o gli sarebbe rimasto il dubbio e il sospetto per tutta la vita. Sapeva comunque che la certezza l'avrebbe avuta appena fosse giunto sulla cima della montagna. Completamente spoglia e deserta com'era, non avrebbe più potuto celarla alla sua vista. tempo il bosco arrivava fin sulla vetta dello Sturznipa, ma più di 20 anni prima era stato devastato da un incendio, e da allora la vasta cupola del monte era rimasta nuda. Brughiera, empetro e lichene islandico a poco erano spuntati fra le rocce, ma nessun albero vi proiettava più la sua ombra. La vista era superba da lassù, da quando il bosco era sparito. Abbracciava tutto il lungo lago, il Löwen, tutta la verde vallata che circondava e tutti i monti azzurri che proteggevano la valle. Quando i giovani della Skedalar, dalla loro angusta vallata, si arrampicavano sulla cima dello Snipa, non potevano non pensare alla montagna dove il tentatore aveva condotto il Signore per mostrargli tutti i regni del mondo e della loro magnificenza. Quando Jan finalmente si lasciò alle spalle il bosco e uscì all'aperto, si trovò davanti la cantatrice. Sul dirupo più elevato, dove la visuale era più vasta, c'era un cumulo di pietre, e sul pietre più alta vantatrice la fina gulla col suo vestito rosso. Spiccava chiara e netta contro il pallido cielo della sera. E se la gente delle valli e dei boschi ai suoi piedi avesse levato gli occhi verso lo Sturznipa, avrebbe potuto vederla, lì, dritta, nel suo abito cangiante. Il suo sguardo si perdeva lontano, al di là di miglia e miglia. Vedeva chiese bianche su colli scoscesi presso le rive del lago, ferriere e tenute circondate da parchi e giardini, la lunga e compatta fila di fattorie sul margine della foresta, le scacchiere dei campi, l'intreccio di strade serpeggianti, immensi boschi senza fine. In un primo tempo cantava ancora, ma poi tacque persa a guardare lontano, verso il vasto mondo che le si apriva davanti. Infine, spalancò le braccia come se volesse stringere tutto in un abbraccio, tutta quella ricca e grandiosa immensità da cui era stata fino a quel giorno esclusa. Non fu che a notte inoltrata che Jan tornò a casa. E quando rientrò non seppe render conto di nulla. Sosteneva di essere stato dal deputato e di avere anche parlato con lui, ma quel che gli aveva consigliato non se lo ricordava. «Non vale la pena di far nulla», ripeteva di tanto in tanto. E fu l'unica informazione che Katrina poté tirargli fuori. Jan camminava tutto curvo e sembrava mortalmente malato. Sulla giacca aveva tracce di terra e di muschio. Katrina gli chiese se era caduto o se si era fatto male. No, non era caduto, ma certo era rimasto coricato a terra per un po'. Era dunque malato? No, neppure. C'era soltanto qualche cosa che si era fermato. Ma che cosa si era fermato nel momento in cui aveva capito che la sua ragazzina si era offerta di salvare la casetta non per amore, ma perché anelava ad andare lontano da loro, nel vasto mondo? Questo non voleva dirlo. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.